Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sapevo che fatalmente sarebbe arrivato questo momento. Il viaggiatore in treno deve convivere il suo spazio vitale con la transumanza umana di ritorno dalle vacanze. C'è di tutto, naturalmente. Sono i vacanzieri più micragnosi, quelli che hanno meno budget da investire, che scelgono la bassa stagione, ma sono comunque quelli che in questi giorni tornano verso casa con lo stigma ancora indelebile del periodo felice passato in luoghi ameni. In realtà la coppia che ho davanti di ameno ha ben poco. Sono sfatti, distrutti. Sono vestiti più o meno da montagna, in maniera piuttosto approssimativa. Camice a scacchi, pantaloncini tagliati, calze rotti. Lei in particolare, entrambi hanno naturalmente le scarpe da montagna, scarpe da salita. Perché? Perché quando si viaggia le scarpe da montagna occupano molto spazio, non si mettono nel bagaglio, te le tieni ai piedi, anche se estate, anche se parti con il solleone d'agosto dal centro di Roma, stazione Termini. Lei però, non potendo resistere, ha tolto gli scarponi e mostra i suoi candidi piedini vescicati e sanguinanti da quelle che sono state probabilmente improprie imprese di alta scalatura. Di solito quando si va in montagna, per risparmiare spazio nei bagagli, uno in treno viaggia con le pedule, con l'attrezzatura d'alta montagna, anche se poi fa caldo, è così? No, io ci vengo proprio dalla montagna. Sono di ritorno, un po' massacrata. Perché non era come pensavi? Guarda, volevamo fare una vacanza diversa col mio ragazzo e io non volevo andare ad annoiarmi al mare. E vabbè, facciamo una passeggiata. Beh, non è che c'è stato uno sforzo di fantasia, o mare o montagna. Però ho detto non è che andiamo in montagna, scegliamo una baita e stiamo lì. Ho detto facciamo proprio un trekking che dormiamo nei rifugi. Cioè trekking estremo hai fatto? Allora in realtà io mi immaginavo, cioè, sono andata un po' a cercare su Google trekking montagna Piemonte e ho trovato il giro del Monviso. Mi immaginavo insomma vallate intorno a questo monte, quindi tu camminavi. No, scusami, sono quelle cose organizzate che tu vai con un gruppo che non conosci? Allora no, io ho fatto così, ho visto tutta la, sono entrata nel sito di quelli che organizzano i gruppi. Sì. E gli ho copiato tutta la descrizione del percorso con le indicazioni, me la sono scaricata, mi sono scaricata anche il PDF dove dicevano che cosa dovevamo portarci. E sei andata da sola? E siamo andati, sì. Ma questo è lo sbaglio, quando un trekking organizzato ci sono persone, diciamo, si spera competenti che ti aiutano, quindi avete rischiato la vita te e il tuo ragazzo? Ma no, abbiamo faticato molto, però insomma diciamo... Da soli, voi due basta? Eravamo loro due basta e poi non incontravamo mai nessuno. Ogni tanto incontravamo qualcuno vestito di super tecnico che ci guardava. Ma è chiaro, questi trekking organizzati sono roba da Umarell e da Zitellone. Vanno lì nel gruppo, si socializza, si familiarizza. Qualcuno spera di trovare marito, trovare moglie, questo, o un fidanzato, o un'avventura e via dicendo. Però sono organizzatissimi, suppliscono l'imperizia dei partecipanti con delle guide che ti aiutano, ti supportano, ti prendono in braccio, ti soccorrono. Ma sì, mi sembra che sia diventato un po'... cioè che sia pieno di dettagli superflui ormai l'andare in montagna, cioè vedi persone con 6.000 integratori, racchette, gli zaini supersonici, la maglietta in microfibra. E voi dovete andare alle bancarelle? Fino a 20 anni fa come si faceva ad andare in montagna? Non so. Pantaloni velluto, calzettoni rossi e scarponi di cuoio. Esatto, cioè c'erano dei pantaloni lunghi, le scarpe da trekking, una maglietta di cotone, uno zaino piccolo, ma cioè sembravamo degli alieni a confronto. Però avete sofferto. Un po' sofferto, sì. Qual è stata l'origine della sofferenza? C'avete la tendina? Dove dormivate? No, dormivamo nei rifugi. Beh, già, quello comunque c'è uno standard uguale per tutti, quindi. Sì, nei rifugi che c'hai le camerate, la camerata più grande c'erano 45 persone che dormivano. Beh, questo avrà molto giovato per la qualità del vostro rapporto, l'intimità era naturalmente interdetta. Vabbè, dai, per due notti si può fare. Il problema è che il primo giorno siamo partiti troppo tardi, perché abbiamo iniziato a salire in montagna a mezzogiorno. Vabbè, ma questa è contro ogni regola, ma è chiaro. Sì, ma eravamo lontani, dovevamo prendere la macchina, ci abbiamo messo tanto, e quindi poi prima di arrivare al rifugio ci ha quasi colto il buio. Si era preso tutto il peggior caldo della giornata e poi il buio, naturalmente, cioè. No, è diventato nuvoloso immediatamente, cioè abbiamo fatto un dislivello di 1000 metri il primo giorno, come abbiamo iniziato a salire siamo stati avvolti da una nebbia, non abbiamo capito più dove eravamo. Sì, ti rendi conto che non abbiamo trovato il rifugio. Siete le tipiche persone che leggi poi nel giornale, alpinisti inesperti trovati morti, schiantati. Sì. Ma questa. E poi sotto i commenti, vedi, noi paghiamo le tasse per andarle a riprendere. Cioè, giusto, anch'io lo penso, infatti. Ma non è vero, cioè, avevamo comunque tutta la mappa. Sì, ma già avete fatto uno sbaglio fondamentale partendo tardi, avviandovi. Siamo partiti tardi. Non avete guardato il tempo, avete già camminato di notte senza l'attrezzatura. Comunque ce l'abbiamo fatta. Sì, è andata bene. E poi una volta arrivati, siete andati nel rifugio? Una volta arrivati nel rifugio ci davano per morti, perché siamo arrivati alle 6:30. E invece, cioè, se non arrivi alle 6 non dormi, tipo non ti lasciano il posto, sì. Quindi poi ci hanno dato un sacco di polenta e fagioli e alle 8 già dormivamo. E beh, questo si fa. Non abbiamo mai visto il buio, ci addormentavamo sempre prima. Cioè, voi alle 8 andate a dormire sullo stomaco polenta e fagioli? Sì, ma praticamente alle 7:30 già non c'è nessuno, sono andati tutti a dormire. Perché gente che stava in montagna dalle 5 di mattina, capisci? Esatto, loro si svegliano alle 5, sì. Sì. E voi che facevate? Lì tutti russavano, voi con gli occhi aperti? No, siamo addormentati immediatamente. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Nello stanzone da 40? Nello stanzione da 40. E tu pensa dopo che avevano mangiato fagioli tutti i 40 che che habitat? Io mi ero portato i tappi. Vabbè. Sì, perché russavano tutti, naturalmente. Perché mi hanno raccontato appunto di esperienze bruttissime. La promiscuità con sconosciuti dà questi inconvenienti. Esatto. Quindi. Poi la mattina com'è stata? Fare le docce collettive, che avete fatto? No, niente docce. Manco vi siete lavati. La doccia costa 6 euro. Quindi non. Ah, quindi eravate proprio al risparmio, vacanza micragnosa. Sì. Ah, quindi il motivo il bagno, è stato non un motivo di. Ho fatto il bagno in un laghetto, però era pieno di cacca di mucca. Sì, il bagno nel laghetto è un'altra delle cose pericolosissime, sai. Rischi una congestione, sono profondissimi, sono insidiosi, rischi la vita. In quel caso era pieno. Ma scusa, vi muoveva la micragna o una scelta estetica e filosofica? La micragna. Era una scelta filosofica. Volevo fare una camminata intorno a qualcosa o sopra qualcosa, senza passare due volte dallo stesso punto. E potevi farla intorno. Senza mai tornare indietro. Intorno a un monumento, a Villa Borghese, andavi e giravi quanto volevi, rischiavi meno. Il secondo giorno com'è andato? Il secondo giorno, appunto, ho fatto il bagno nel lago. Sì. Siamo. È tutto bene, quello non ha avuto. Non ha dato nessun problema. Saliti, siamo andati a mangiare in un altro rifugio dove era pieno di anziani che facevano trekking su e giù per la montagna. Quindi a me mi era presa la tendinite, quindi zoppicavo. Ma perché non avevi le scarpe adatte? Non avevi le scarpe adatte? No, erano scarpe adatte. Poi siamo arrivati al secondo rifugio dove erano severissimi i gestori. Sembrava di stare alle medie con gli insegnanti che ti cazziavano. Sì, però la montagna è questo. Ci sono delle regole. Sì, no, ma infatti rischi la vita. Era bellissimo. Sì, sì. E da là poi abbiamo proseguito il giorno dopo. Siamo risvegliati all'alba, involtolati dentro al sacco lenzuolo. Abbiamo provato a giocare un po' a burraco, ma. Aveva avuto freddo? Quindi non abbiamo visto. Soltanto col lenzuolo, col sacco lenzuolo ha avuto anche un po' freddo. Tu devi portare il sacco lenzuolo. E loro ti danno le coperte. E loro ti danno le coperte. Così non devono lavare le lenzuola, giustamente. Ma certo. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. La mattina dopo sì, 45 persone che si svegliano tutte insieme fa impressione, non c'era bisogno non della sveglia. Non hai fatto il militare, quindi non so che significa. Esatto. E niente, il giorno dopo c'avevo una tendinite tremenda agli stinchi, avevo 8 ore di cammino davanti. Quindi, altri, che tipo 1000 metri di dislivello, ho detto beh, facciamo pezzetto per pezzetto, poi al massimo torniamo a valle. E niente, abbiamo fatto una piccola ferratina e siamo poi arrivati in Francia da un tunnel di 75 metri sotterraneo e siamo arrivati a un punto in cui c'era la Francia a destra, l'Italia a sinistra e da là ho detto vabbè basta, non voglio tornare indietro, non voglio scendere a valle, proseguiamo. Mi sono fatta altre 6 ore, siamo arrivati in un rifugio francese con un pianista che suonava Jan Tiersen. In Francia sono molto più rilassati che da noi. E poi niente, da là abbiamo ancora camminato tra caprioli. Non erano caprioli. Ma tutto erano in due giorni? Tutto in due giorni? Sì, in tre. Non erano caprioli, erano stambecchi. Quelli che hanno daini, un daino con le corna giganti. Dei piccoli bambi. Sì, ha lanciato il panino, ghiacciai e poi siamo ritornati a valle, ma siamo arrivati proprio anche là, che era diventato, siccome io zoppicavo, siamo arrivati a notte fonda a valle con le pile, la nebbia, ci siamo persi e poi avevo letto che c'era un lupo delle Alpi Cozie che girava, quindi avevamo paura del lupo, però insomma poi ce l'abbiamo fatta. Adesso vogliamo invece salire sul vulcano dello Stromboli. Non ti è passata la voglia? No, non è passata. Poi devo scoprire se la tendinite era colpa delle scarpe o no. Quindi sarai grata al tuo fidanzato che ti ha portato in questa bella avventura? Ma no, l'ho portato io. Cioè, lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere. L'ho convinto io e vabbè, mi avrebbe potuto abbandonare in un sentiero e insultarmi in qualsiasi momento, invece no. È stato bravo. Non è detto che lo faccia ripensandoci poi a ritroso, diventi uno dei motivi che creano una frattura assolutamente incolmabile nel vostro rapporto. Spero di no anch'io. Scendo, vabbè. Ti saluto, ti faccio i miei auguri per la prossima escursione. Grazie. Ciao. Il giovane uomo davanti a me non mi toglie gli occhi di dosso, almeno immagino che abbia gli occhi fissi su di me, a meno che non dorma dietro quegli spessi occhiali scuri, dalle astine che isolano anche la possibilità di cogliere lateralmente il suo sguardo. È fermo, immobile, rigido, tiene una valigetta sulle ginocchia e mi guarda. Mi guarda e ha un auricolare, ma non parla, ascolta. Chi è? Ma non so, mi faccio tutte le ipotesi di questo mondo. Penso che sia qualcuno che mi voglia arrestare, penso qualcuno che mi studia per rapinarmi, o peggio sia qualcuno che in realtà è molto interessato a quello che faccio. Dico, beh, è venuto il momento che sono stato denunciato e qualcuno si è stufato del fatto che da 3 anni un signore giri per tutti i treni d'Italia, guardi, osservi, studi, faccia domande e si faccia i fatti degli altri, che qualcuno ha deciso che adesso prima o poi questo tirerà fuori un tesserino e mi arresterà. Mira, lei deve smettere di fare questa attività. Invece no, invece quando apre la sua valigetta guardo la carta intestata. Non avevo sbagliato di molto. Giuseppe Tiralongo, Atlantica Investigazioni. È lui, un detective. Ho colto un detective nel pieno della sua azione, ma contro di me, a danno mio o chissà di quale altro viaggiatore improvvido in questo scompartimento. Sei su questo treno perché stai lavorando? No, assolutamente beh, sì, no. Non me lo diresti mai. No, no, no, poi non te lo direi, quindi. Forse pedini me. No, vabbè, la regola. Se tu dovessi pedinare una persona in treno, come faresti? Prenderei il treno e molte volte ci sono alcuni vagoni che hanno che diciamo riflettono le immagini della poltrona dal vetro o dal pannello. Quindi stai due file dietro e lo vedi riflesso. Comunque sto sempre distante, a meno che avviene un incontro particolare che mi interessa, allora a quel punto cerco comunque di documentarlo. Limitatamente, perché comunque è una proprietà privata aperta al pubblico, e quindi. Tu puoi solo guardare, fare qualche foto, magari. Ma intanto guardo e quindi sono testimone di ciò che sta avvenendo. E poi cerco comunque di reperire, di documentare quello che sto osservando. La cosa che cerchi di più sono delle tresche, amanti, fuga d'amore. Ma vedi, l'investigazione è un mondo molto particolare e è veramente a mille sfaccettature, perché l'investigatore nasce anche per risolvere il problema che hanno le famiglie, quindi appunto dalle tresche, l'investigazione coniugale. Sono problemi quelli. Ma certo. Il problema c'è anche per l'assegno di mantenimento, per il minorenne che ha preso una brutta strada, per lo stalker da parte dell'ex marito, o è veramente vario. E poi c'è anche la parte aziendale, c'è il dipendente che abusa del permesso 104 e invece di assistere la persona. Quello è uno schifo, è vero? Esatto, e lì lo faccio con molta soddisfazione. Licenziavo tantissimo, cioè ho licenziato, ho dato la possibilità a molti avvocati di licenziare persone che meritavano questa un reato che è penale. In quel caso fai fare delle foto te, facciamo delle foto, documentiamo tutto quanto. Allora l'investigatore privato non è un paparazzo, partiamo da questo presupposto. Ma c'è quelle macchine fotografiche nascoste negli occhiali, nel distintivo? Che ci fai? No. E con che fotografi? Il telefono? No, il telefono dipende, il telefono può essere utilizzato perché ormai è un oggetto comune, diciamo che non dà all'occhio, quindi utilizzare un telefono in distanze come in un treno per esempio è molto. Ti fai molto un selfie e dentro c'è anche qualcosa. Però diciamo che l'attrezzatura che utilizziamo spesso è quella della macchina fotografica reflex con degli obiettivi importanti. Quindi con... sembra un fotografo a tutti gli effetti. No, non ti vede nessuno perché con il 400 ti apposti. Riusciamo, esatto, ci appostiamo, il lavoro del killer, ci appostiamo e documentiamo. Ma ti copri con delle frasche, te li mimetici, come mai? Come il collaboratore ti copre, si mette davanti e ti copre. Ah, ti copre, devi andare in due. Sì, insomma, c'è un'organizzazione operativa che ti rende in un certo senso. Ma ce l'hai attrezzi tipo, non so, la spy pen che fa le foto? Sono giocattoli. Gli occhiali raggi X, cioè ci sono queste cose? No, gli occhiali raggi X mi ricordano molto i giornalisti degli anni 80, che c'era la pubblicità, ero molto affascinato. No, gli occhiali... Si vende di tutto oggi in rete, allora. E chiunque può avere... Quali sono le cose veramente professionali? Quelle professionali sono i GPS, perché ti permettono, ti consentono di fare un pedinamento ad una distanza importante, quindi di essere totalmente invisibile e seguire la persona H24 per un periodo medio lungo. Ma devi mettergli addosso qualcosa a te? No, si mette nella macchina. Ah, gli attacchi. La legge ci consente di localizzare l'autovettura, non la persona. Cosa faccio? Metti una calamita? Mettiamo... non te lo dico. Vabbè. Però mettiamo sarà una calamita, dai. Sì, diciamo che installiamo la si vede anche nei film, dai. Esatto, come nei film. Fai finta di essere il benzinaio e attacchi la calamita sotto. No, in genere si fa di notte, come i ladri. Si va di notte in due e attacchi la calamita. Il collaboratore ti fa da palo e tu vai. Quello si può fare, legge. La legge ce lo consente limitatamente a quello che chiaramente il caso richiede. Non posso. Ma le calamite le potrei comprare anch'io oppure le calamite sono di libera vendita, anche il GPS. Anche in rete vendono tutto. Esatto, è chiaro che bisogna trovare l'apparecchio che realmente funziona e che fa il lavoro in maniera professionale. E quindi poi te lo tracci e vedi dove va, te lo muovi. Lo seguo il controllo di questa. Chiaramente non questo è probatorio. Aiuta moltissimo, aiuta nel pedinato, garantisce anche una certa riservatezza, perché in questo modo difficilmente la persona che pediniamo può accorgersi del nostro operato. Ma quando finisce, diciamo, l'attività che fai, te la vai a riprendere o è a perdere? Costa tanto. Andiamo subito a riprendere prima di consegnare le risultanze del servizio. E mettiamo in sicurezza anche perché comunque in Italia tutti possono denunciare chiunque, quindi tutti denunciano tutti, quindi comunque non è da escludere da parte della persona pedinata un'eventuale denuncia, e quindi insomma evitiamo qualsiasi problema. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Un amico mio sarà comprato degli attrezzi che hanno rilevatori di questa roba qua, che lo teneva sempre acceso, che suonava e ti divideva se c'era qualcosa nel... Ma ci bonificava le stanze dove faceva le riunioni di lavoro, cioè questa ossessione. Ma funzionano? Lascia il tempo che trova, perché sì, potrebbero funzionare se sai come funzionano, e lo devi fare per mestiere. Dovresti spengere tutti i telefoni cellulari che sono presenti nell'ambiente che stai bonificando. Dovresti anche comprendere se il segnale che stai rilevando è un segnale interno o è un segnale di rimbalzo che viene dal piano di sopra, certo. Quindi va anche un po'. Una confessione, me lo sono fatto prestare, lo porto a casa mia. Suonava da disperato. Beh, quindi ho abbandonato. Adesso quello se che poi mi dici, ci vengo io. No, ma figurati, che scherzo. Purtroppo e quello suona sempre. Siamo pieni di interferenze. Suonava sempre. A quel punto suonava sempre. Esatto, ma bisogna escludere alcuni segnali. Nel mio studio intercetto, non so, le reti almeno altre 10 persone. Esatto. La rete. Esatto, quindi insomma è impossibile fare una bonifica ambientale senza avere quelle conoscenze tecniche e quelle strumentazioni che comunque ti danno la possibilità di comprendere la caratteristica. Ma c'è la pistola addosso? Segnale. Prego? C'è la pistola in tasca? No. Non giri con la pistola? No. Non serve, che ne so, l'investigatore. A parte che se avessi indosso una pistola non lo direi. Comunque l'investigatore privato non è credenza popolare. La nascondi dietro come fanno quelli fighi. No, figuriamoci, no. Cioè non può essere come nei film americani che c'è il cadavere per terra, la polizia e arriva... Il detective lo guarda un po' male. Io personalmente ho subito due sequestri. Ti hanno sequestrato? Sì, in passato. Cioè, te proprio col bavaglio ti hanno portato via? No, mi hanno preso e sì, ma sequestrato. Due volte è successo questo. E subisco. Non posso dirtelo chiaramente. Però. Cioè, ma una cosa illegale, non potevi. Cioè. È illegalmente, certo. Mi hanno sequestrato perché qualcuno. T'hanno torturato? No. So. Però è stata una situazione spiacevole. Ero sì, ma una volta sequestrato, cosa volevano da te? Volevano sapere quello che sapevo. No, non voglio entrare nel merito, però. Volevano sapere cosa avevo visto, cosa conosco. Allora, partiamo dal presupposto che molti servizi speciali. No, è un'infedeltà coniugale. Ma se io sto seguendo Mario Rossi della banda della Magliana e la moglie gli dice ti ho beccato che vai con l'amante, quello gli prende un colpo, dice questo che ha visto, ecco, è qualcosa di cacca, simile. Beh, certo, è chiaro. Esatto, quindi perché l'investigazione è entrato nel giro più grosso di quello che pensavi, come nei ma film. Ma guarda, magari quando sarò un po' più. No, ma non con l'età scriverò un libro di tutti i casi che ho fatto e allora uno capisce anche la difficoltà e il sì, anche pericolo. Perché pensa, ti faccio un esempio. Viene una persona a dirti mio marito o mia moglie mette le corna, tu lo segui, ma tu che ne sai chi è quella persona? Appunto. Chi vede, chi non vede, magari ha degli intrallazzi che nemmeno immagini, ti trovi in un giro enorme che nemmeno lo sai. Guarda, fortunatamente la mia grande esperienza, che ormai insomma sono più di 20 anni che faccio questo lavoro, mi dà la possibilità anche di capire in che cosa mi sto imbattendo, però chiaramente non hai la potenzialità che può avere un poliziotto che riesce a fare, che fa uno SD d'ufficio e sa se sta seguendo un delinquente oppure una persona per bene. Sì, oggi poi i canali sono talmente differenziati, il riciclaggio denaro, la gestione dei soldi, gente assolutamente impeccabile, c'ha le mani comunque, sei visto a Roma quando è scoppiata mafia capitale, certo. C'erano dentro tutti gli insospettabili, va a pestare i piedi a qualcuno di quelli. Infatti il pericolo c'è, però purtroppo non tutti gli investigatori sono armati, cioè, questa è una cosa che ancora è a discrezione del ma questo. Ti servirebbe, faccio un paradosso, ti sequestrano due o tre della banda della Magliana, che ci fai con la pistola? Ti fai male? Ma lasciamo perdere quello. Io ho licenziato tante persone, ho fatto 20 anni di attività. Considera, faccio questo lavoro da quando avevo 17 anni, adesso ce ne ho 40, quindi 41 passione. Ieri. Quindi... Come ti è nata la passione? Mi è nata perché ero così, ero una persona curiosa, volevo un lavoro diverso, un lavoro. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. E come è cominciato? Come si comincia? Ma il vicino di casa aveva un'agenzia investigativa. Ah, ecco, e inizia. Sapeva che avevo la necessità comunque di lavorare, perché in casa nostra insomma non ce la passavamo bene. E diceva, guarda, ogni tanto mi chiamava quando c'era qualche lavoretto. Ecco, ragazzo motorino. Di bottega di un investigatore, che facevi? Adesso facevo di tutto, facevo gli appostamenti, i pedinamenti. Cioè le cose più faticose. E considera che era anche più semplice per me, che ne so, seguire un minore, perché ero anche io, cioè non ero il cinquantenne, quindi riuscivo anche ad entrarmi in determinate... Senza offesa, oggi in un rave party ti noterei, diciamo. Sì. Sì, ma non ci vado io, fortunatamente. Beh, ti metti una parrucca. No, vabbè, ormai il collaboratore di bottega non esiste più, perché la legge non ce lo consente. All'inizio cosa facevi? Ti dice, va, sali su quell'albero, stacci 3 giorni, vediamo... Qualcosa di sì, no, ho fatto una gavetta molto dura, quindi... Però è stato utile, no? Sì, no, ma io non rimpiango, rifarei tutto quanto. Diciamo che il salto tecnologico ha cambiato il mestiere, però. Sì, ma anche a livello di fotografia, io ricordo avevo la mia prima macchina era una Yashica, non ricordo il nome, però era una macchina vecchissima. A pellicola ancora? A pellicola, quindi dovevi, era pomeriggio, dovevi tirare gli ISO, cambiare la pellicola e poi per mettere a fuoco dovevi prendere la luce, era un dramma. Facevi un appostamento, sapevi che una persona doveva uscire in quel determinato portone e tu rimanevi appostato in puntamento come se dovessi fare veramente come un paparazzo. Rimanevi lì ore e ore, però nascosto magari dietro un albero, cioè era abbastanza faticoso. Con la tecnologia tutto è diventato più semplice, però paradossalmente la tecnologia dà anche una mano alle persone che adesso vogliono nascondersi dai propri incontri fedigrafi o da altre cose, perché... Quindi quello rimane quello, il problema principale sono gli amanti? Ma il problema principale per me non è un problema, nel senso chiaramente è nell'essere umano. L'uomo non è un animale fertile H24 e poi ognuno fa i fatti suoi, lo posso dire. Sì, okay, sì, quindi sì. Insomma, e comunque fa parte dell'uomo. Siamo noi che abbiamo questa concezione di famiglia che in altri animali non c'è, quindi sì, ma io non entro in mezzo, solo capire, diciamo. Tu quindi sai che ci sono dei luoghi di appuntamento, certo, motel, mai. La garzoniere, lo scannatoio. Ho una mappa, soprattutto su Roma dove opero. Quindi ci sono le praterie dove si sa già che la gente va, certo, va a pascolare. Sì, sì, le zone, io in base alle zone già so dove potrebbe avvenire il presunto incontro. Lì è pesca strascico, butti la rete e pigli tutto. No, sì, no, beh, non puoi. Beh, scuola, adesso non so Roma, la periferia di Milano ci sono quegli hotel creativi con la stanza antiche romani, la stanza egiziana. Certo, no, ma c'è anche lì non Roma. È che la gente ci va con la famiglia, chiaro. No, ma c'è anche a Roma, non posso dire i nomi. Sì, però ci sono le saune in centro. Cioè, sì, ecco, le saune sono presenti. Cioè, chi va a farsi la sauna al centro di Roma, sì, vicino al Vaticano, certo. Vedi? Massaggio romantico. Sì, esatto, quel famoso massaggio romantico. Quindi si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Poi diciamo c'è un altro settore anche meno divertente, tutto quello secondo me dello spionaggio industriale, queste cose qua. Del controspionaggio industriale, perché lo spionaggio non lo puoi fare legalmente. Certo. Quel caso è l'infedeltà, diciamo, di un dipendente, devi verificare. Ma guarda, soprattutto in questo contesto storico, esatto. Beh, secondo me l'infedeltà coniugale è già di per sé una cosa gravissima, perché insomma. Ma adesso fare il paraculo, dai. Su. No, è vero, no, a parte gli scherzi, no. Io la reputo, io sono sposato e per la mia famiglia, certo. Sputo il sangue, faccio tutto quello che faccio, lo faccio per la mia famiglia. Un giorno troverai come nei film delle spie, il tuo migliore migliore amico e collega, te lo trovi dietro le spalle con la macchina fotografica che l'ha mandato tua moglie. No. Fortunatamente, vabbè, spero che, insomma, che mai dire mai, per carità, sì. Però insomma, no, invece per quanto riguarda il controspionaggio industriale, ma soprattutto la tutela del patrimonio dell'impresa, in questo contesto storico secondo me dovrebbe essere una cosa fondamentale. Molte aziende ancora non hanno chiaro il concetto di questo tipo di attività, perché credono che sia un costo inutile. Invece secondo me sapere se un dipendente è in permesso sindacale o se sta facendo i propri comodi, se quel concorrente sta applicando nei tuoi confronti una concorrenza sleale e vendi i tuoi prodotti o comunque li prende e li trasforma e quindi fa, è importantissimo. Perché avere un malessere interno e esterno in un periodo di crisi vuol dire rischiare di chiudere, di fallire. Sì, io vedo che molti parlano anche di sicurezza informatica, di sistemi di controllo, è giusto. Giusto. Ma la prima sicurezza è chi sta manualmente davanti al computer, deve fidarti di quello. Senz'altro. E invece non voglio sottostimare il lavoro informatico, ma il primo problema è anche la quello. Persona. Noi facciamo quando offriamo un servizio di questo genere all'azienda cerchiamo di dare una tutela che sia una tutela veramente a ampio raggio, dalla sicurezza passiva alla sicurezza attiva. Simuliamo degli accessi, ma degli attacchi informatici e anche fisici, quindi controlliamo anche se può entrare dentro l'ufficio del direttore, per esempio. Quindi beh, questo è interessante. È molto interessante, però tu vedi se fino a dove riesce ad arrivare uno sconosciuto fingendosi l'uomo, esatto, delle pulizie, e dice guarda, esatto, se chiunque può entrare da te dicendo sono l'elettricista e nessuno gli chiede di qualificarsi. Esatto. Il treno va. L'intensa attività di introspezione con le persone incontrate in questo mio riavvio di nuovo viaggio lungo il treno che va e non si sa se arriva, non si sa chi l'aspetta, posso finalmente guardare la posta arretrata. È un paio di mesi che non osservo e non leggo quelli che sono i messaggi che mi arrivano. Molti mi dicono e mi hanno scritto durante quest'estate: ma chi sei tu perché possa dare giudizio sulla vita sentimentale delle persone? Quelli che poi mi danno del bavoso, del viscido, del morboso, parli solo di sesso, ma quando mai avete sentito nominare oggi la parola sesso? No, non sono interessato, ma di sesso invece mi parla l'ascoltatore che mi scrive questa lettera accurata e mi pone una domanda che soltanto alla fine avrà la soddisfazione di avere risposta, ma per la quale naturalmente non dovrà seguire, se vuole essere persona accorta, nessuno dei miei consigli. Caro Gianluca, vivo in Arizona da 11 anni. Mi sono sposato qui con una donna americana con cui ho vissuto anche un anno a Roma e da cui però mi sono poi separato dopo il nostro trasferimento qui in America. I primi anni dopo la separazione e il divorzio sono stati per me un susseguirsi di periodi di depressione, sensi di colpa, eccetera. Premetto che sapevo benissimo che il nostro matrimonio non aveva funzionato, che c'era praticamente una grande incompatibilità di caratteri e la pochissima frequentazione che abbiamo avuto prima di sposarci, dovuta anche alla notevole distanza. Ero consapevole che entrambi avevamo le nostre colpe, ma io mi sentivo responsabile perché mi ero calato troppo nella figura del padre adottivo dei suoi bambini e del marito adatto a lei, che in precedenza non aveva avuto. C'erano tantissimi progetti, sia quando eravamo a Roma, sia una volta arrivati qui a Phoenix. Addirittura avevamo in mente di avere un altro figlio, o forse di più. Poi lei cominciò ad essere ossessivamente gelosa di me, soprattutto quando vivevamo a Roma, perché a suo dire qui da noi vi era un'evidente facilità di costumi sociali e anche sessuali. Quindi associava l'Italia e me, in quanto italiano, alla passionalità senza freni. Non si sentiva sicura della mia fedeltà, mi ossessionava spesso di domande inquisitorie quando facevo rientro a casa tardi per lavoro o per altri motivi. Ma la sua gelosia non cambiò dopo essere tornati qui in Arizona e io la ritenevo quasi asfissiante. Non l'ho mai tradita durante il nostro breve matrimonio, meno di 2 anni, anche se sinceramente l'intenzione c'era, perché avrei voluto punirla per la sua feroce ossessione nei miei confronti. Decisi invece di dormire in camere separate per qualche settimana e naturalmente senza avere alcun rapporto, perché pensavo che avrebbe capito dei suoi errori e della sua inutile gelosia. Purtroppo lei capì il contrario, cioè che secondo lei io avevo delle relazioni con altre donne e che lei non mi interessava più. Caro amico, ci sta tutta che una donna possa essere gelosa. Ci sta tutta che tu possa aver, non so secondo quale dote fisica, esteriore, interiore o nascosta, avvalorato la tesi ormai muffa e passata assolutamente di moda dell'italiano rubacuore, della donna italiana disponibile ad avventure stratosferiche. In realtà una donna americana sa che c'è molta più disinibizione, molta più facilità comunque ad allacciare rapporti fugaci e fuggevoli nelle turiste americane che vengono in Italia rispetto che le femmine autoctone. Detto questo, se la donna gelosa ce l'hai, te la tieni, ma che non lo sapevi prima che era gelosa. E in fondo, se mancasse la gelosia, probabilmente il compagno di persona gelosa o la compagna di uomo geloso in qualche maniera sentirebbe un calo di attenzione. Ma tu hai fatto, caro mio, la cosa più sbagliata. Hai fatto esattamente quello che fa una persona quando si stanca del proprio compagno o della propria compagna, tira giù la saracinesca e chiude il rubinetto delle prestazioni sessuali. Quando finisce il sesso può rimanere in piedi il rapporto, ma attualmente non è più un rapporto di passione, di lussuria, di trascinamento. Ecco, tu andando a vivere in camere separate gli hai dato il segnale che comunque era chiusa e giustamente lei ti ha mandato a quel paese. Sapevo di correre dei rischi facendo questo, ma onestamente non sarei riuscito a tradirla con un'altra donna per farle capire della sua asfissiante gelosia. Ora ho 55 anni, ho avuto alcune storie, serie e non, che non sono riuscito a sviluppare in una relazione lunga e duratura. E così l'anno scorso mi sono risposato qui negli Stati Uniti con una mia amica di vecchia data. Non c'era passione, forse l'ho fatto per pura disperazione. O forse per illudermi di essere io ancora quello di 25 anni fa, quando la conobbi. E lo stesso è per lei. Purtroppo è stato un matrimonio durato pochissimi giorni e finito a parolacce e qualche schiaffone. Come vedi, le ho provate tutte, dalla relazione amorosa a quella fondata sull'amicizia. Alla fine non regge niente. Qual è la morale? Per me la compatibilità di carattere, di abitudini e simili in una relazione seria o in un matrimonio è impossibile. E per stare insieme sotto uno stesso tetto bisogna rinunciare circa un 50% delle proprie caratteristiche, una condizione necessaria per trovare uno spazio mutuabile per entrambi. A parer mio, le persone come me, poco inclini a tale rinuncia. Quindi, quello che ti chiedo è, secondo te, qual è la percentuale della propria personalità che bisogna mettere da parte per convivere con un'altra persona? E poi, ma ha veramente senso farlo? E perché? Saluti. Roberto. È certo che la seconda soluzione è la tipica toppa che è peggio del buco. Ti conveniva comunque abbozzare con la prima moglie, alla fine trovare una forma di compromesso, una forma di intesa, una maniera a stare assieme che andare a ripescare la minestrina riscaldata, la ripresina della vecchia amica che improvvisamente diventa amante, poi diventa moglie. Ma com'è possibile? Se una ti è stata amica, ti potrà mai essere moglie? A meno che voi non facciate un patto prematrimoniale e diciate, guardate, noi decidiamo di mettere assieme gli stipendi, di mettere assieme le forze comuni, dividere la casa, insomma facciamo una bella società di fatto mirata al mutuo soccorso e non mettiamo di mezzo il sentimento, l'amore, la fedeltà e via dicendo. Ma questa storia naturalmente è velocemente naufragata e quindi non è più nemmeno a disposizione un'amica che forse nei periodi di magra una pallida ripresina te l'avrebbe concessa, avrebbe dato un po' di chiarore nelle tue buie notti sconsolate. Mi fai una domanda, quanto bisogna cedere secondo te? Qual è la percentuale di compromesso in un rapporto di coppia duraturo? Caro, dipende dall'altra persona. Quanto respiro ti dà, quanto spazio ti dà, quanta lunghezza di guinzaglio, di collare ti dà, tanto tu ti puoi prendere. Quando a un certo punto trovi il muro devi fare una scelta. O soggiaccio o scappo, se tu vuoi soggiacere, la contrattazione è a livello zero, accetti comunque quello che è un diktat e ti accontenti di quello che hai. Se la persona ti dà molto spago, ti dà molta corda, ti lascia spazio e vedi che non occorre nemmeno più negoziare, fai quello che vuoi, vuol dire che naturalmente quella persona avrà trovato di meglio e si accontenta comunque di avere, e ritorniamo alla fase B, un compagno per una sorta di associazione di mutuo soccorso che in fondo è utile perché due stipendi valgono molto più di uno. Avete ascoltato Il treno va. Conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale.